Noi da tempo, da anni, denunciamo questi problemi in regione con la nostra consigliera regionale Silvia Buoni, in comune, insomma, è da anni che ascoltiamo i comitati, sono due comitati ormai, che si battono contro questo inquinamento acuto insopportabile che influisce negativamente e pesantemente sulla qualità della vita di migliaia di persone. Quindi, al di là dell'aspetto politico, io direi che la cosa grave è che si continua a sottovalutare la salute dei residenti, soprattutto del quartiere Navile, ma poi non è solo il quartiere Navile, ormai sono tante le zone interessate, anche in altri comuni limitrofi. Quindi questo studio dell'azienda US, con un anno di ritardo, finalmente è stato pubblicato, diciamo che non contiene grosse novità rispetto a quello precedente. Trattandosi di un banale studio medico, cioè è basato semplicemente calcolando i decessi, i ricoveri ospedalieri, le visite specialistiche e i consumi di farmaci, quindi uno studio basato su questi elementi, ovviamente i risultati non sono sconvolgenti, però si registrano queste anomalie, queste differenze rispetto alla popolazione di Bologna che non è quella direttamente colpita. Si osserva un aumentato rischio di accedere a prestazioni otorino-laringoiatriche e maggior utilizzo di farmaci per antiipertensivi e disturbi correlati alla secrezione acida gastrica. Quindi seppure uno studio medico appunto limitato che non prende in considerazione una vera analisi epidemiologica, diciamo che già questo sottolinea che i problemi ci sono gravi, però io parlando quasi quotidianamente con i cittadini, con le persone della Pescarola, il quartiere Navile, quelli che hanno proprio i tetti sotto i voli, cioè vedono le persone dell'aereo praticamente da casa, mi raccontano tutti i giorni che i danni sono incalcolabili sul sistema nervoso, cioè chiunque di noi può immaginare cosa vuol dire avere un aereo sulla testa ogni 3, 4, 5 minuti. Chi abita la Pescarola è un inferno quotidiano, di giorno e di notte, perché per ragioni meteo spesso gli aerei possono passare sopra la città e non in zona Bargellino dove dovrebbero passare. Quindi un aereo che ti passa mezzanotte e mezza sul tetto della casa mentre stai dormendo, mentre stai tentando di dormire, è un trauma che chi non vive questa situazione forse non può capire. Nel report vengono dati anche delle raccomandazioni sulla mitigazione, quindi di questi impatti. Sì, il report si conclude con questa frase: quanto emerso suggerisce la necessità di un consolidamento delle attività di mitigazione del traffico aeroportuale già adottate e previste ed il mantenimento di un sistema di sorveglianza. Allora, una frase molto generica: le attività di mitigazione già adottate mi dicono che non stanno funzionando, cercare di cambiare la traiettoria di decollo, atterraggio, cercare di essere meno impattante quando si decolla, quindi alzarsi di più, non stanno funzionando. Le persone non vedono miglioramenti rispetto a un anno fa, due anni fa. Stiamo parlando di un aeroporto nella città che ha raggiunto il record di 10 milioni di passeggeri. Questo record verrà battuto continuamente nei prossimi mesi. Si stanno raggiungendo i 105-110 voli sulla città al giorno, un numero spaventoso. Quindi i mesi estivi sono tremendi perché aumentano i voli. Ovviamente le persone non si rinchiudono in casa con le finestre chiuse, quindi è difficilissimo mitigare il rumore con i doppi vetri, a meno che uno non si chiuda in casa con l'aria condizionata. Quindi queste attività di mitigazione già adottate non stanno funzionando. Il sistema di sorveglianza, il sistema di sorveglianza da mantenere, però il sistema di sorveglianza ci dice che le cose non stanno andando bene. A questo punto, tornando alla politica, qui se la politica è responsabile della salute delle persone, la politica deve intervenire, cioè è più importante l'economia o la salute? Questi due aspetti possono andare insieme o se non possono andare insieme, quale deve prevalere? Prevale l'economia o prevale la salute? L'anno scorso il sindaco Lepore aveva ottenuto qualcosa sui sorvoli notturni, però insomma ben poca cosa. Questo studio può aiutare in questa battaglia? Ci sarà un approfondimento di questo studio. Questo studio dice che la situazione non è peggiorata e non ci sono maggiori ricoveri e decessi nelle zone impattate dai sorvoli, quindi secondo me non aiuterà molto la politica questo studio. Diciamo che in questo periodo elettorale il Partito Democratico ha avuto un'attenzione maggiore rispetto alle lamentele, alle richieste di aiuto da parte dei residenti, e questi problemi non devono essere affrontati in campagna elettorale secondo me. Il problema è che questo rapporto è troppo grande, i voli sono troppo numerosi. Quindi la politica deve prendersi la responsabilità di risolvere un problema gravissimo che riguarda la salute di migliaia di persone, semplicemente rifacendosi a un concetto molto semplice che tutti noi abbiamo imparato a scuola da piccoli. Cioè, se non ci può essere una crescita infinita su un pianeta finito, ma questo vale anche a livello locale, non ci può essere una crescita infinita in una città finita, non ci può essere una crescita infinita in un quartiere finito,